direttamente dalla Black Side Record per il 2007, stronzi. E questo è il puro suono dell'asfalto, man. Quello che non pensavate saremmo riusciti a fare, man. Altro suono, man. Senti, senti, sono strada, fra. Shake, shake, praise la morta, DJ. Fra, bruciano le strade, qua notti fatte di ombre. In testa il volto di mia madre, fuori una città che dorme. Poi, freddi respiri, l'asfalto solca il mio varco. Vedo puttane in strada, volanti, bilancia al parco. Passi tra le mura, bande agitano sguardi. Stanno bene i miei ragazzi, anche stanotte farò tardi. Fra, sollevo pugni, spingo metri che salde. I fuori delle calotte, anche nelle teste più caldi. Pesi dentro le tasche, il contante che muove l'asse. Mami, muovo nel ventre per queste fottute masse, man. Mille volti fra l'asfalto, forgia lingue. Senti il suono delle strade quando la mia gente spinge. Fra, non più tempo di riflettere, spiegarmi come qua solo 5 lettere tengono saldo il nome. Sono ali di fuoco, poi aspira e medita gli spettri di una vita, poi una voce mi perseguita. Qua abuso il milite, notti fra droghe e bibite. Ho versi tra le fiamme, poi un cielo che fa da limite. Ora incendio menti, poi fra esco di rado. Me non tendo la mano, il sistema mi ha fatto ladro. Qua niente piombo, versi nel caricatore. Finisce che scuoto le mura da Lambrate a San Vittore. Fra nervi saldi fino a quando poi non casco. Stringo bracci sull'asfalto proprio come Donny Brasco. Vedo angeli al suolo, la luna divora il giorno, non mi fido degli abbracci fra troppi infami intorno. Qua niente battaglia fra il mio lirico scontro. Calpesto serpi sulle strade, il pianeta mi viene incontro, man. Pensieri in ombra, versi avvolgono la salma. Stringo il micro fra le mani, stendo merde fino all'alba. Anime senza respiro fra solcano le strade. Siamo schiavi delle ombre fin quando la luna cade. Vedo anime al suolo, poi salme sotto quei peli. Un altro tiro di sta merda e sarò il regno dei cieli. Fra i piedi sull'asfalto fin quando la schiena trema. Qua fanno di me una voce che forrà il sistema. Pagine sulle spoglie tra il fuoco della radice. Fra il mio stesso talento che mi maledice, porto il peso sulle guance, saluto di finti amici. C'è chi muove talento, chi neve nelle narici. Vorrei morti agli infami, poi quei figli di puttana, gli stessi che hanno ucciso il rap solo per un po' di grana. Forare teste delle merde che scambiano questo per moda. Odiavano questa merda, ora c'è gente che la loda. Le stelle si scontrano tra l'una in questa rissa. Fra i miei occhi cedono, poi il mio cielo eclissa. Ho un cuore di pietra, merda, quando sono nato. E sono le stesse liriche frutto del mio peccato. Qua incendio pagine mentre il cielo casca. Poi pesi sopra le strade, pugni stretti come Pasqua. Vedo valor di zona, una luna pronta a stendermi. Qua paura che questi spettri tornino a prendermi. Fra l'asfalto e vita e voi ne siete strani. E questo ciò che separa il mio colpo dai vostri crani. Proprio così, man. Pagine d'asfalto, overfighters. Veniamo a prendervi, stronzi, man. Non provateci, fra l'asfalto non è per voi. Esatto, finocchi del cazzo, man. Noi siamo quella Black Side. Aspettiamo, merda.